La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, Radio 24, 16:32 primi, con qualche secondo di ritardo quindi, ma dagli studi di Milano vi saluta Oscar Giannino per gli ascolti in diretta e in podcast, come sempre, e vi dice subito di cosa parliamo oggi, di un problema che si è manifestato nei giorni finali della scorsa settimana e che secondo me è un problema sul quale riflettere, perché riguarda la politica, riguarda la magistratura, riguarda l'informazione, perché tutti e tre concorrono a questo problema. E vi inviterei ad ascoltare, mettendo da parte le opinioni di ciascuno, che io rispetto, le opinioni legittimissime e molto diverse che avete verso questa o quella parte politica, questo o quell'esponente politico. Perché? Che cosa è successo? È successo che noi in pochissimi giorni abbiamo avuto le assoluzioni di esponenti politici verso i quali si era scatenata una polemica con effetti diversi di parti politiche diverse. Cioè noi abbiamo avuto per esempio una sentenza di assoluzione per uno dei procedimenti a cui è sottoposto l'attuale presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. De Luca è un esponente politico che interessato da più procedimenti penali, avvisi di garanzia, indagini eccetera eccetera, si è sempre difeso a spada tratta dicendo non me ne importa nulla, io non mi dimetto, sfido chiunque, vado avanti. È stato anche eletto presidente della regione Campania e ha avuto una assoluzione in uno di questi procedimenti. Quindi fino a questo momento la giustizia dimostra con De Luca, non è la prima volta tra prescrizioni e assoluzioni, che lui dal suo punto di vista ha pienamente ragione, i suoi elettori lo hanno premiato e lui si comporta così, il suo partito il PD diciamo si comporta in maniera diversa a seconda degli esponenti. Il PD ha avuto un esponente di primo piano in Emilia Romagna che voleva partecipare alle primarie per la presidenza della regione, che si è ritirato perché aveva un avviso di garanzia e poi è stato assolto anche lui, però intanto si era ritirato. Poi che cosa è successo nello stesso giorno di venerdì? Sono successe assoluzioni insomma di vicende che sono state molto rilevanti in due aree diverse del paese. Lo sapete, l'ex sindaco di Roma che esattamente l'8 ottobre di un anno fa fu travolto dalla sfiducia dalla maggioranza dei consiglieri del Consiglio Comunale, una maggioranza trasversale, pezzi della sua maggioranza, il PD che lo sosteneva e le opposizioni, fu travolto perché? Per un'indagine che si era scatenata, la polemica si era scatenata per un'indagine che lo riguardava, relativo agli scontrini, cioè all'utilizzo di fondi istituzionali per pranzi e cene eccetera eccetera. In generale avevano scritto paginate intere, sembrava che fosse quando scontrini per cene quando non c'era, assolto un anno dopo che le vicende politiche sono state quelle che sapete, si è andata alle elezioni anticipate e oggi le 5 Stelle hanno vinto le elezioni, c'è il sindaco Virginia Raggi. Contemporaneamente in un'altra parte d'Italia un'altra assoluzione, perché il fatto non sussiste, relativo a un ex presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, in questo caso quindi stiamo parlando della maggioranza di centrodestra, esponente della Lega, che a propria volta era stato personalmente travolto da una polemica che era esplosa perché lui, come altri consiglieri regionali, era interessato da una indagine per l'utilizzo improprio di fondi istituzionali, sosteneva la procura, per fini impropri. E in questo caso anche lui travolto dalla polemica, in Piemonte poi si è votato in anticipo. E come vedete quindi diverse parti politiche, esiti diversi. De Luca non si dimette, va avanti, viene eletto. Marino viene travolto, ci sono elezioni anticipate, cambio di segno. La giunta Cota in Piemonte, indagine, anche lì esplode la polemica, travolti dalle polemiche. Questo tema è un tema rilevante. Molto rilevante. Lo dico anche a chi vota 5 Stelle, io rispetto tutti quelli, io per primo mi batto per la politica dalle mani pulite, però qui c'è un cortocircuito evidente, tanto è vero che si vede, per esempio, l'assessore Muraro a Roma della giunta Raggi, a propria volta indagata, e i 5 Stelle stanno adottando un criterio diverso da quello solito, subito a casa appena arrivava l'avviso di garanzia. Che su cosa bisogna riflettere? Sul fatto che evidentemente c'è qualcosa che non funziona, da una parte nell'attacco immediato della polemica quando arrivano gli avvisi di garanzia, che pure molte volte sono giustificatissimi, perché parliamoci chiari, l'utilizzo dei fondi istituzionali per cose che possono essere personali è una roba che manda al manicomio la gran parte della gente. L'informazione, come ovvio, fa il suo mestiere e ci inzuppa il panino, per così dire. Cosa succede però se noi alteriamo la vita delle istituzioni quando poi ad anni di distanza tutti assolti? Il caso di Marino sta facendo riesplodere il PD a Roma, che già è spaccato di suo per il referendum, perché c'è una parte dell'elettorato di Marino che non ha buttato giù questa roba e adesso dice l'avete voluto voi del PD, Orfini e così via, per dire. Allora, questo problema forse ha bisogno di una riflessione e di qualche intervento. Mi limito a leggervi, prima di presentare gli ospiti di oggi, un passaggio che mi ha fatto molto riflettere, di Cesare Mirabelli. Quindi stiamo parlando di un giurista italiano che è stato in Corte Costituzionale, un presidente emerito, relativo proprio al tema di oggi. È un editoriale che oggi era in prima pagina sul Messaggero, titolato Giustizia e politica, ora va tracciato un nuovo confine. E a questo proposito Mirabelli scrive una cosa che mi ha fatto ulteriormente riflettere, perché dice bisogna poi, oltre a dire naturalmente principi diciamo di elementare buonsenso, non bisognerebbe andare addosso subito per un avviso di garanzia, ciascuno è innocente fino all'ultimo grado di giudizio, d'accordo, sappiamo però che la politica non funziona così da vent'anni nel nostro paese, a un certo punto dice bisogna poi fare attenzione, leggo l'articolo di Cesare Mirabelli, alla formula della soluzione. Se il fatto non sussiste, cioè la formula per la soluzione, il fatto non sussiste, o l'imputato non lo ha commesso, l'abbaglio del pubblico ministero riguarda lo stesso fatto materiale oggetto dell'accusa. Se la formula invece è il fatto non costituisce il reato, l'errore è nella sua qualificazione come penalmente perseguibile, mentre può essere un fatto per il quale vi può essere una responsabilità amministrativa o politica. Ecco, qui il problema è che, per esempio, in alcuni casi siamo proprio esattamente in presenza di assoluzioni perché il fatto non sussiste. E dice il presidente emerito della Corte Costituzionale, l'abbaglio del pubblico ministero, si parla di un abbaglio del pubblico ministero. Ecco, allora, come si fa in questi casi? Ecco, adesso vi presento i due ospiti e vi spiego perché sono due, perché uno lo capirete subito, perché è con noi. Io ho chiesto anche a Marino, che però non risponde al telefono, quindi volevo essere bipartisan, però Marino non siamo riusciti a contattarlo né per oggi né per domani mattina, perché anche per domani mattina lo volevamo invitare, fino a questo momento non ci ha risposto. Allora, il primo ospite di oggi è appunto l'ex presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota. Buon pomeriggio e grazie. Buonasera a voi. E un altro è il presidente della Regione Veneto, che non è qui in quanto compagno di partito, e quindi vabbè, è ovvio che dà la solidarietà a Roberto Cota, ma perché questo fine settimana ha avanzato una proposta esattamente sull'interrogativo che vi pongo in questa trasmissione, cari ascoltatori. E cioè abbiamo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buon pomeriggio, presidente. Buonasera, grazie per l'invito. Ciao no. Roberto. Luca. Allora, lei, presidente Zaia, io comincio da lei prima di fare qualche domanda a Cota, perché lei ha detto qui c'è una questione da esaminare per rispetto sia degli elettori che delle istituzioni, che del politico eletto, ma non solo del politico eletto, cioè non è solo una tutela del politico eletto, qui il problema è rispettare anche chi ha fatto una scelta e poi magari si vede elezioni anticipate, cambia polo e poi dopo si scopre che c'è una soluzione perché il fatto non sussiste. Che proposta ha avanzato Zaia? Ma guardi, la ringrazio per l'opportunità, le dirò che non sono nuovo a formulare questa proposta, perché ne ho parlato anche in tempi non sospetti. C'è un tema che è quello che i cittadini hanno diritto di sapere se chi li amministra è un ladro oppure no, ha un poco di buono. Allora ci sono dei fatti, e penso che l'esempio di Cota sia eclatante, ci sono dei fatti che non è che tu devi star lì a mettere in fila un dossier e accatastarlo assieme ad altri dossier in procura nell'attesa che arrivi la sua ora e quindi dopo qualche anno qualcuno sentenzierà. Io penso, e sono convinto di questo, che gli amministratori hanno l'obbligo di dimostrare la loro trasparenza nella loro azione amministrativa, ma anche proprio per garantire il diritto della conoscenza ai cittadini, che si istituisca una sezione speciale nelle procure, si inventi qualcosa in maniera tale che ci sia una corsia preferenziale. La vicenda di Cota, delle famose mutande verdi che non sono mai esistite, È una vicenda che penso che con un incrocio di scontrini, un minimo di verifica sentendo le persone interessate, la si poteva chiudere in qualche giorno. Allora dico, l'interesse della comunità qual è? Di sapere che il presidente Cota non aveva commesso alcun reato. La verità è che il presidente Cota ha pagato un conto salatissimo, personale e politico, di questa partita. E il cittadino è stato poi fuorviato, nel senso che se lei digita su Google il tema mutande verdi, ne viene fuori di tutto. Però da un lato io direi che un appello doveroso da fare al mondo della comunicazione, che per sbattere il mostro in prima pagina ci mette poco. Però è altrettanto vero che il presidente Cota non ha avuto, ma anche Marino non hanno avuto gli stessi articoli con gli stessi spazi per lo stesso periodo rispetto agli attacchi che hanno avuto. Questo, dall'altro, guardi, sono vecchio abbastanza, Zè, per darle ragione in termini generali, ma per sapere che non avverrà mai, perché è una deformazione dell'informazione. Ma qui il problema non è solo di un uomo politico che ha pagato il prezzo, per esempio Cota è fuori dalla politica, è tornato a fare l'avvocato, il professionista. Qui c'è un problema che sono cambiate il colore delle istituzioni per effetto di tutte le polemiche che ci sono state. Quindi c'è un livello, per così dire, che non è solo il danno e l'amarezza personale, c'è proprio un diverso corso politico, che a Roma è successo questo, in Piemonte è successo questo, e così via. Allora, però, io le faccio un'obiezione, perché molti direbbero, no, Zaia sta proponendo un giudice speciale per i politici. No, non sto proponendo questo, sto chiedendo che sia data possibilità ai cittadini di sapere, quando c'è una contestazione nei confronti di un amministratore, di sapere con velocità se la contestazione è fondata oppure no. Poi ci sono fatti gravi, complessi. Penso all'inchiesta del MOSE, che non si può liquidare in certo, un paio non di si settimane. Fa in tre giorni, esattamente. Però ci sono delle vicende, come quella di Cota, che è lampante. Penso che con un giro di telefonate, a sto punto, si riusciva a chiarire con velocità. Le aggiungo un'altra cosa, visto che lei è sempre attento a queste cose. Noi amministratori, questa è un'altra proposta che faccio da anni, ma vedo tutti sorridere, noi amministratori siamo obbligati, ed è bene che sia così, a fare una dichiarazione della nostra consistenza patrimoniale, no? Tutto quello che tu hai, società, patrimonio e quant'altro. Viene letteralmente sbattuta, cioè rilanciata dai giornali, e poi ne parte tutta una serie di considerazioni, allusioni, certo, o quant'altro. Io propongo da sempre, ma se il problema, togliamo il problema del voyeurismo e di impicciarsi di fatti altrui, ma il vero tema è capire se gli amministratori sono corretti e se il loro patrimonio cresce oppure no. Pensi che qui in Repubblica Veneta si pesavano i doggi prima dell'incarico e per vedere se avevano gli zecchini di più in tasca e andava a finire male se erano arricchiti di più in maniera ingiustificata. Dico, ma perché non diamo la possibilità a noi amministratori di dar vita a un dossier che consegniamo alla Guardia di Finanza o qualcuno, e sto dossier è sempre lì a disposizione della magistratura? Che senso ha andare sui giornali con le notizie? Vabbè. Poi, però adesso questa qui non è una cosa da poco. No. Va sempre nella direzione, e le spiego, ci fanno dichiarare lo stato patrimoniale, ma mai i debiti. Cioè, se uno c'è un appartamento, non deve dichiarare che c'è un mutuo. Deve dichiarare che è l'appartamento. Cioè, questa è l'Italia che non funziona. Ecco, magari bisognerebbe farla completa, però lei lo sa che nella vita pubblica, secondo le leggi generali, anche quelle che tutelano l'immagine, c'è una diminuita tutela per il diritto alla privacy, e questo io devo dire lo capisco. Poi bisognerebbe farle complete, come dice lei. Però invece la questione delle inchieste penali, qui ormai ha un impatto sulle istituzioni. Ripeto, qui non è solo il Piemonte. Roma è una vicenda di impatto incredibile, ecco, e sono convinto che tanti del PD che sono in ascolto, come già scrivono, li vedo, sono d'accordo. Quindi, come vedete, è una questione totalmente trasversale. Allora, la mia opinione personalissima è che questa proposta di Zaia per reati di alcun tipo, peculato, che significa l'utilizzo di risorse improprie da parte del politico per mettersela in tasca, lì è vero che in effetti si può fare molto rapidamente, perché anche nel caso di Marino erano scontrini. C'è voluto un anno? Ecco, non lo so, perché poi tutto è possibile, no? Nel senso che neanche i magistrati, come scrive Mirabelli, non prendono abbagli, A, dal punto di vista tecnico, e B, magari possono essere, si può immaginare che ci siano anche da loro delle opinioni, delle tendenze che contano, no? In quell'indagine. Non sto mettendo in dubbio nessuna, non sto ipotizzando alcun reato da parte dei magistrati, sto usando le parole di un costituzionalista che è stato membro della Corte Costituzionale per riflettere. A me non sembra che la proposta di Zaia sia sbagliata, su quella del fatto che su alcuni tipi di reato facilmente accertabili, che riguardano la correttezza, la trasparenza, l'onestà del politico eletto, se non vogliamo continuare ad avere istituzioni che vanno per aria, dovremmo pensare a una misura di questo tipo. Allora, intanto ringrazio Zai, adesso abbiamo un minuto di traffico e poi vediamo Roberto Cota che effetto gli fa questa soluzione. Tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, siamo tornati in diretta. Io lo sapevo che molti di voi non accettano il discorso della trasversalità. C'è un certo numero di ascoltatori che mi mandano sms dicendo: no, noi del PD a Roma l'abbiamo fatto decadere perché era un incapace politico. Come volete, questa è la versione ufficiale, però lo sapete che l'indagine è stato ciò che ha travolto di fatto la credibilità di Marino, no? Poi se volete negarlo, come volete voi. Poi altri ascoltatori 5 Stelle dicono: no, non puoi dire che la Muraro è una contraddizione per i 5 Stelle perché non è un'iscritta al movimento ma è un'esterna. Quello che volete, è un membro della giunta e fino a questo momento il criterio è stato diverso da quello applicato magari a iscritti o amministratori di componenti di giunta con sindaci dei 5 Stelle, mettiamola così. Ecco, per De Luca vedo però che nessuno protesta, perché evidentemente vi va bene, se siete PD campani, difendere De Luca che non si dimette. Vedete che c'è un problema di doppio pesismo, cioè non si può considerare in termini diversi a seconda che sia un avversario politico del proprio partito il criterio degli avvisi di garanzia e dei rinvii a giudizio, almeno questa è la mia opinione. Poi io rispetto invece chi dice che c'entra, un conto è la soluzione politica, ma per me comunque i soldi utilizzati istituzionali, anche se il PM dice il PM diceva che era reato perché sennò non ci sarebbe stato rinvio a giudizio. State attenti su questo, perché questa è una componente fondamentale degli esiti delle polemiche. È il giudice che ha detto il fatto non sussiste, e quindi non è che sbatto fatti specie, hai proprio preso un abbaglio. Poi vedremo nel dispositivo della sentenza come il giudice motiva il fatto che alcuni consiglieri regionali piemontesi sono stati condannati e altri no, perché a me, devo dirvi la verità, non è chiaro qual è il criterio che ha usato il giudice. Detto questo, qui siamo in presenza di una soluzione perché il fatto non sussiste. Ecco, perdonate, ma io devo una risposta a tutti gli ascoltatori che, come sapevo, hanno opinioni diverse e che tendono a reagire un po' diversamente a seconda di coloro a cui danno il voto, mentre questo è un problema trasversale, istituzionale, riguarda tutti, Mi spiegate perché il candidato PD poi assolto che non ha potuto fare le primarie forse le poteva vincere in Emilia Romagna? Io devo rispetto anche a lui, lasciate perdere cosa voto o non voto se non vado a votare, bisogna ricordarsene tutte queste vicende. Allora, Cota, come l'ha presa questa soluzione a danno fatto? Come l'ho presa? Dal punto di vista della soluzione sono contento, nel senso che mi sono tolto un macigno che gravava sulla mia vita, come ha detto giustamente Luca Zaia, da anni, da tempo, da troppo tempo, nel senso che qui questa inchiesta è partita nel 2012 e adesso siamo nel 2016. Poi io avevo chiesto un giudizio immediato, chiesto e ottenuto il giudizio immediato, quindi per me non c'è stato rinvio a giudizio, nel senso che sono stato io che ho chiesto di essere giudicato direttamente dal giudice del dibattimento, quindi il pubblico ministero ha fatto soltanto la richiesta di rinvio a giudizio, c'è stato un giudice... non mi aveva ancora giudicato, il primo giudice che mi giudica mi ha giudicato innocente perché il fatto non sussiste. E quindi io sono d'accordo, diciamo, sul fatto che bisogna mettere che i processi devono essere veloci, sicuramente. Ritenevo che la mia posizione dovesse essere archiviata subito, come era stata archiviata la posizione di alcuni esponenti della sinistra, e anche questo, voglio dire, ha avuto il suo peso in quella che è stata la successione così degli eventi che si è verificata, perché per alcuni consiglieri della sinistra la procura ha chiesto l'archiviazione subito, quindi prima ancora che si svolgessero le elezioni regionali, e io ritenevo che ci fossero tutte le condizioni, così come ritengo, perché fosse fatta chiarezza subito con una richiesta di archiviazione in allora, senza aspettare il giudizio successivamente. Detto questo, e dopo aver espresso, diciamo così, la mia posizione sul processo, perché dico anche una cosa però, che è successa una cosa molto più grave rispetto ad un caso di ingiustizia che arriva con ritardo e rispetto ai patimenti umani di una persona, molto più grave, perché io posso anche arrivare a comprendere che esista la sfortuna, posso arrivare a comprendere che chi fa una determinata attività debba avere le spalle più larghe e debba sopportare anche queste cose, posso arrivare anche fino a qui. Quello che è successo in Piemonte è qualcosa di molto più grave, perché c'è stata una operazione ordita da un manipolo di persone senza scrupoli che aveva come obiettivo riuscito, purtroppo, quello di cacciarmi via dalla guida del Piemonte, o meglio, non è tanto di cacciare via il sottoscritto, di alterare quelli che erano gli equilibri politici. E vi spiego come è successo, brevemente. Si è partiti con l'attacco mediatico di delegittimazione, diciamo, attraverso questa invenzione, perché poi non lo dico io che è un'invenzione, perché lo dicessi io, lo dice il giudice con una sentenza, perché il fatto non sussiste. C'è stata questa campagna di attacco di delegittimazione e subito dopo c'è stato un annullamento delle elezioni da parte del TAR dopo 4 anni. Allora, premesso che non è immaginabile in un paese civile annullare delle elezioni che si sono svolte in maniera regolare, cioè nel senso che non ci sono brogli elettorali, non so se riesco a rendere l'idea, non ci sono... No, la questione era quella delle firme, delle liste. No, ma non era neanche le firme, perché poi non è colpa sua, anzi lei è il giornalista più preciso che io conosca, ma era un problema di luogo di accettazione di 5 esatto, candidature, esatto, sì, di una lista collegata, cioè di candidati che hanno preso 5 preferenze in tutto. Quando io ho vinto le elezioni con 255.000 voti personali, ribaltando anche il risultato delle liste, e questa lista qui, maledetta lista ovviamente, è stata ammessa dai tribunali, cioè un tribunale l'ha ammessa... E un'altra invece l'ha considerata per le sue modalità... Il tribunale, quando si presentano le liste, il tribunale le ammette e poi fa votare i cittadini su una scheda. Aspetta. Quindi è stato un tribunale che ha detto che i cittadini dovevano votare su quella lista. Aspetti Cota, io la devo, siccome i tempi miei sono finiti praticamente, io devo dire che, cari ascoltatori, non vi potete stupire che Cota sia appassione, perché lì è cambiato il segno politico, come a Roma della regione Piemonte, e io non sto ipotizzando Chiamparino come un occulto, però di fatto rifletteteci su come ci stiamo comportando su questa storia della giustizia con i tempi disastrati e poi le condanne che non ci sono e arrivano le assoluzioni di un presidente di regione, del sindaco di Roma. Non stiamo parlando di robette, stiamo parlando della vita politica nazionale. Allora, continuate con Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani alle 8:20, attenti a noi due.